Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, più tranquilla oggi la borsa e anche i mitici spread, ossia la differenza tra quanto rendono le nostre obbligazioni e quelle tedesche, lo spread con il Bund, per carità è sempre a un livello molto alto, ma è in calo rispetto a ieri. Di questo ci occuperemo più avanti nella seconda ora del programma, perché sulla rete, ossia su internet, ma non solo, circolano numerose ipotesi di un vero e proprio complotto ai danni dell'euro che utilizza l'Italia come, diciamo, ventre molle, un complotto delle banche d'affari americane, di grandi speculatori internazionali, che in sostanza vuole scaricare sull'Europa quelli che sono problemi prettamente americani in questo momento sul debito, e quindi vuole utilizzare l'attacco all'euro e l'attacco nel caso specifico all'Italia per distrarre l'attenzione o stornare l'attenzione da quelli che sono i problemi statunitensi ai problemi europei. Il recupero comunque oggi c'è a Piazza Affari più che in altre borse, più 1,75% Milano, non vuol dire che stia recuperando tutto, ieri ha perso il 3%, però Parigi guadagna l'1,22%, Francoforte l'1,30%, Londra lo 0,85%. Il recupero sui bancari si chiama più 4,24% per Unicredito, più 3,51% per Intesa San Paolo, più 3% per il Banco Popolare e più 2,45% per il Monte dei Paschi. In recupero anche Fiat Industrial più 2,80%, ST Microelectronics più 2,5% come in pregilo, Azimut più 2,40, Ansaldo più 2,30 come Atlantia, il 2% è il rialzo infine di UbiBanca. Chi cede oggi? Cede Pirelli, e ce ne occuperemo durante l'aggiornamento con i mercati finanziari, il 5,28% per Pirelli. Va fatto notare che Pirelli è cresciuta moltissimo in queste ultime sedute, praticamente il titolo in 12 mesi ha quasi raddoppiato il suo valore. Fondiaria Assai meno 1,60, l'automatica meno 0,66%. L'euro è in rafforzamento, quota 1,42, 1,419. Per quello che riguarda il resto del mercato, adesso vediamo anche l'aggiornamento su oro e petrolio. Dico subito che l'oro, come già sapete, forse ha fatto un nuovo record a 1.610,70 dollari. L'once, il numero per i vostri sms è 349-238-6666, e adesso partiamo subito con le notizie in breve. Dicevamo, oro a nuovo record e anche il petrolio aperto in rialzo a 97,32 dollari al barile. Benzinai, lo sciopero viene anticipato, attenzione, lo sciopero dei punti vendita carburanti stradali e autostradali proclamato per il prossimo 27-28 luglio si terrà in realtà del 25 luglio alle 22 del 27 luglio. Dati americani, le costruzioni di case nuove negli Stati Uniti sono salite del 14% a giugno, un dato migliore di ogni attesa, ma arriva invece un rosso record, ossia una perdita record per la Bank of America, uno dei colossi di Wall Street. Ha archiviato il periodo aprile-giugno con 8 miliardi di dollari di perdita contro un attivo di 3 miliardi nello stesso periodo, quindi nel secondo trimestre dell'anno scorso. Il motivo, ha spiegato la banca, è dovuto alle perdite sui mutui. E anche un altro colosso di Wall Street, Goldman Sachs, archivia un secondo trimestre con un utile in in aumento del 77%, anche se i ricavi sono in calo. L'utile ha fatto infatti 1 miliardo e 9 milioni di dollari contro i 613 milioni dell'anno precedente, del secondo trimestre dell'anno precedente, più 77%. I ricavi invece sono calati del 18%. È utile oltre le attese anche per Wells Fargo, più 29% a quasi 4 miliardi di dollari. E ricordo che tutte le grandi banche d'affari americane che stanno pubblicando le loro trimestrali hanno chiuso, a parte appunto Bank of America, il dato di oggi, con utili in aumento. Lo ha fatto infatti Citigroup, che ha visto l'utile salire del 24% a 3 miliardi 340 milioni di dollari, e anche JP Morgan, che ha visto l'utile salire del 13%. Vedo molti messaggi già al 349-238-6666. Cos'è successo di diverso rispetto a ieri? Ma ovviamente niente. C'è un rimbalzo sui mercati, i mercati sono molto volatili e secondo molte previsioni lo saranno ancora di più si avvicina il cuore dell'estate. Però attenzione a cantare vittoria, c'è chi vuole che mettiamo il gallo? No, adesso capirete anche perché no. Nel frattempo dalla Cina arriva una notizia confortante, o meglio il vice premier cinese Li Keqiang, ricevendo a Pechino il ministro degli esteri Franco Frattini, ha espresso fiducia sulla manovra economica varata dall'Italia e ha detto che le misure prese saranno in grado di traghettare l'Italia fuori dalla crisi temporanea, e poi ha aggiunto: continueremo come Cina a investire in Europa. Eppure gli attacchi di questi ultimi giorni pesano anche sulla fiducia delle imprese tedesche. L'indice ZEV, che la misura è calato bruscamente di 15 punti, ed è tornato ai minimi dal gennaio 2009, e il motivo, cioè ciò che pesa in maniera negativa sulle imprese tedesche, è appunto la crisi dei debiti sovrani. E mentre Angela Merkel getta acqua sul fuoco sull'incontro di giovedì prossimo, in cui ha detto la Merkel non vi sarà nessuna soluzione spettacolare a Bruxelles, promuoveremo un processo controllato di misure che dovranno susseguirsi nel corso del tempo per risolvere il problema della Grecia alla radice. In realtà, mentre la Merkel dice non vi sarà nessuna soluzione spettacolare, secondo uno dei membri della Banca Centrale Europea, Ewald Nowotny, in un'intervista da CNBC, la Banca Centrale Europea potrebbe continuare a accettare titoli di Stato della Grecia anche nel caso di un breve default controllato, selettivo, cioè di un fallimento pilotato, chiamiamolo così. E poi di nuovo parla d'Italia il presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet: l'Italia può farcela da sola. Perché dico che non ha senso mandare il gallo oggi? Perché la borsa è in recupero, anche se, ripeto, non ha recuperato tutto quello che ha perso ieri e nei giorni scorsi. Però lo spread, la differenza tra quanto rendono i nostri BTP a 10 anni e il Bund tedesco a 10 anni, è scesa rispetto ai 332 punti di ieri, ma resta sopra i 300 punti, cioè sopra il 3% di rendimento. Siamo a 312 punti, per cui è scesa ma resta molto molto alta. Anche in Spagna è calato lo spread da 368 a 344 punti, ma insomma i BTP spagnoli rendono il 6,15%. La Spagna comunque oggi è riuscita a collocare sul mercato 4 miliardi e mezzo di euro di obbligazioni spagnole a 12 mesi e a 18 mesi. Non ha trovato compratori per tutto il collocamento, l'obiettivo massimo era di 4 miliardi e mezzo. Comunque ha piazzato anche un botta a un anno da 3 miliardi e 800 milioni di euro con un interesse del 3,7%, che vuol dire un punto percentuale in più rispetto all'ultima asta. La domanda è comunque buona, 2,2 volte l'importo offerto per questo bot a un anno. I costi della politica. Oggi non me ne voglio occupare più, abbiamo già detto ieri ampiamente di quanto un disegno di legge, di riforma costituzionale per tagliare i costi della politica sia una procedura, un iter molto più lungo, perché necessita appunto di una maggioranza qualificata, rispetto a quanto non sarebbe stato inserire nella manovra finanziaria da subito i tagli ai costi della politica. Il ministro Calderoli oggi difende il decreto, dice a parole tutti vogliono tagliare i costi della politica, noi siamo passati invece ai fatti, mettendo nero su bianco una riforma costituzionale che prevede il dimezzamento del numero dei parlamentari e conseguentemente il dimezzamento dei costi dell'intera struttura parlamentare. Gli risponde il segretario del PD Pierluigi Bersani: basta parlare, bisogna fare, sappiamo che senza sobrietà della politica, senza una buona politica non si va da nessuna parte. E oltretutto, aggiunge Bersani, abbiamo una destra che davanti all'ipotesi di una nostra vittoria alle prossime elezioni non esita a gettare fango nel ventilatore. E poi anche il presidente della Ferrari, Montezemolo, oggi ha dichiarato a margine di una premiazione: nel momento in cui si chiede giustamente agli italiani un sacrificio per mantenere il paese competitivo, credo che non sia accettabile o addirittura sia vergognoso che il mondo della politica non guardi dentro se stesso in termini di privilegi, di costi, e quindi faccia altrettanto tagliando i suoi privilegi, i suoi costi. E poi una notizia che i nostri GR vi hanno ricordato: il commissario straordinario di Alitalia, la parte, la bad company di Alitalia, Augusto Fantozzi, si è dimesso perché ha ritenuto che sia venuta meno la fiducia del governo nei suoi confronti e ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del Presidente del Consiglio e del Ministro dello Sviluppo Economico. La stessa cosa hanno fatto tutti i componenti dell'ufficio del commissario. Una decisione, si legge, presa in seguito all'approvazione della manovra che contiene misure che riguardano proprio le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese. Una buona notizia invece, anche se con qualche campanello d'allarme, arriva dall'anagrafe delle imprese italiane, che ha visto nel secondo trimestre del 2011 una crescita di 39.000 imprese, ossia il saldo tra imprese che hanno chiuso e imprese che hanno, hanno aperto è positivo per 39.000 unità, ed è un dato positivo, una su tre tra l'altro è stata aperta al sud. E allora, visto che parliamo di imprese, parliamo anche di un settore che, secondo varie dichiarazioni che abbiamo letto in questi giorni, risulta o risulterebbe penalizzato dalla legge finanziaria. Mi riferisco al settore delle costruzioni e dell'edilizia. Domani c'è l'assemblea infatti dell'ANCE, l'Associazione Nazionale delle Costruttori dell'Edilizia, che riunisce 20.000 imprese del settore. Prima però fatemi fare un commento, perché vedo che insomma ogni volta che si tocca la politica, allora ne riparleremo anche alle 18.10. La domanda che ci siamo posti ieri è: come mai da un mese a questa parte lo spread italiano con il Bund, quindi il termometro su quanto a rischio sia il nostro debito, è iniziato a salire in maniera drastica e repentina, quasi 200 punti, visto che il nostro deficit non è peggiorato, non ci sono notizie di un peggioramento del nostro debito, non c'è una revisione al ribasso di una crescita che pure resta bassa. Le risposte che abbiamo ottenuto da tutti gli intervistati sono che quello che è cambiato è il quadro politico di riferimento. Gli mercati ritengono il governo più debole dopo le amministrative, dopo il referendum, dopo che è sembrato essere sotto attacco il ministro Tremonti, più debole in un momento in cui serve la barra dritta e un governo forte che faccia passare misure anche di sacrificio nel paese. Altri elementi di carattere economico non vi sono stati. Se poi qualcuno così non piace, va bene, dire che adesso tutto quello che abbiamo detto ieri non vale perché la borsa recupera l'1,8%, significa avere una visione miope. Mi dispiace a chi scrive, a chi lo scrive. Lo spread con il Bund è a 303-320 punti anche oggi, c'è un record che ha toccato una settimana fa, cioè, siamo ancora a record come livello, un livello ancora altissimo, quindi non è successo niente. State calmi nell'immaginare che un rimbalzo possa significare un cambio di rotta. Dicevamo, settore edilizia, 300.000 imprese, 3 milioni di lavoratori, l'11% del PIL italiano. Dall'inizio della crisi ha perso 230.000 posti di lavoro, considerando l'indotto si arriva a 350.000 posti. Una cassa integrazione che è cresciuta anche nel 2011, più quasi 11%. Il ricorso alla cassa integrazione. Siamo in collegamento con il presidente dell'ANCE, Paolo Buzzetti. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, presidente Buzzetti, domani c'è il suo atteso intervento all'assemblea annuale. Mi dia subito un commento intanto su come la manovra approvata impatta sul vostro settore, se impatta, perché abbiamo visto sicuramente un'azione sulle pensioni da un lato, sulla spesa delle regioni dall'altro, come i due pilastri più forti di questa manovra. Ma noi temiamo che impatti nel senso di come ha impattato fino adesso tutta la crisi, cioè con una fortissima riduzione degli stanziamenti della spesa in conto capitale, cioè per la spesa per le infrastrutture del paese. È già avvenuto in questi anni che non abbiamo investito, in questo senso siamo stati l'unico paese e temiamo che ancora una volta siano questi gli effetti negativi. Se io posso aggiungere un motivo a quelli che lei ha già elencato del perché siamo, diciamo, stati oggetto di attacco, direi che ormai sento dire da tutti, e ne siamo convinti anche noi, che dobbiamo ridare slancio al paese, al PIL e alla crescita, e il fatto che questo non accada è uno degli l'elemento principale di debolezza. L'edilizia è un grandissimo elemento come motore, il motore principale dell'economia sul mercato interno per ripartire, e guardi che questo l'hanno fatto in questo stesso periodo la Germania e la Francia, hanno puntato moltissimo sulle infrastrutture e sull'edilizia in generale, addirittura gli investimenti, dico solo quello tedesco, sono cresciuti del 2,8%, contribuendo ovviamente all'incremento del PIL tedesco in maniera molto importante, oltre ad altri settori. Allora questa è il grande intervento che va fatto, perché non solo perché abbiamo tantissime cose da fare, siamo, e l'abbiamo ripetuto sempre tutti quanti, la noia in una debacle infrastrutturale del paese elevatissima, siamo al fanalino di coda, eravamo i primi degli anni 70, ma anche perché le nostre città stesse hanno bisogno di interventi importanti di manutenzione, di riqualificazione, di risparmio energetico e di interventi vari, così anche le nostre strade, i nostri corsi e fiumi. Allora, facendo cose utili potremmo comunque ridare vita a un settore che produce, su ogni miliardo investito ne tre ne vengono poi attivati, su ogni miliardo investito 25.000 posti di lavoro, che quindi è un grande volano per la ripresa in un momento attuale in cui lei ha dato i dati della crisi, con la disoccupazione, con le imprese che chiudono e con una situazione veramente pessima all'orizzonte. Allora, poi rispondo anche a alcuni sms, però andiamo avanti con il vostro settore, poi arriviamo anche al rapporto col mondo bancario, perché voi denunciate un credit crunch, ossia una stretta sul credito delle banche al settore dell'edilizia. Però, se ho ben visto, il settore costruzione nel 2010 ha fatto un meno 6,4% come fatturato complessivo, nel 2011 vi attendete un meno 4% e nel 2012 un meno 3,2%. La cosa ancora più interessante è che quest'anno gli investimenti per nuove abitazioni caleranno del 6%, il non residenziale privato calerà del 4%, le opere pubbliche di quasi il 10%. Che cosa chiederà domani al governo nella sua relazione annuale? È appunto di riattivare il settore dell'edilizia. Che significa dal punto di vista delle infrastrutture? si parla di non tagliare le risorse essenziali e magari tagliare i costi inutili che derivano, come si è detto giustamente molto in questi giorni, da una parte dei costi della politica, che vanno considerati anche quelli degli eccessivi costi di molti enti e realtà che naturalmente potrebbero assolutamente risparmiare molto attraverso anche una liberalizzazione delle loro attività, non solo privatizzazioni ma anche liberalizzazioni. Ci sono molti sprechi che andrebbero eliminati e fare un pacchetto di risorse, quelle minime indispensabili, dico, ai fini delle infrastrutture fondamentali. Naturalmente favorire l'intervento dei privati con investimenti nelle opere pubbliche, nelle grandi ma anche nelle piccole, anche in quelle cittadine, e diciamo poi attivare con convinzione quello che in Francia hanno fatto, ma noi siamo in grado di farlo altrettanto bene, un grande programma anche di riqualificazione, come dicevo prima, delle nostre città. Abbiamo degli obiettivi chiari di risparmio energetico, abbiamo obiettivi chiari di manutenzione delle nostre città, abbiamo obiettivi chiari di riqualificazione, nel senso che le città cambiano le destinazioni d'uso, cambia tutto questo. Il recente decreto sviluppo ha introdotto a livello nazionale delle semplificazioni importanti in campo urbanistico, si tratta poi a livello di regioni e città di riproporre con un'ottica un pochino strategica, pensando a 5-10 anni. Siamo tutti immersi nelle questioni del giorno dopo, incredibilmente, se non alziamo lo sguardo e non facciamo una politica industriale a 5 anni, a 10 anni, non andremo da nessuna parte. Allora quello che chiediamo è di cercare di rilanciare un settore che da solo può sicuramente dare un contributo fondamentale alla ripresa dell'occupazione e del PIL interno. Presidente Buzzetti, è indubbio che voi, pur avendo avuto una grossa crescita dal 99 al 2007, dal 2008 al 2012 avete avuto un calo del 22% in termini reali, cioè la produzione dell'edilizia in questo momento si è riportata ai livelli del 1994, se non ricordo male. E sempre dal 2008 al 2011 i lavori pubblici sono calati di quasi il 30%, perché sono calati gli stanziamenti dello Stato, del governo in infrastrutture, cioè il blocco del piano CIPE. Il CIPE deve sbloccare i fondi che si è visto assegnare. Praticamente un terzo dei 3 miliardi e 700 milioni assegnati 2 anni fa sono ancora bloccati, mi corregga poi se sbaglio. Mentre gli altri 7 miliardi e mezzo che devono arrivare al CIPE, solo 1,3 miliardi si sono trasformati in bandi di gara. Domanda: se si dovessero sbloccare questi soldi, vorrebbe dire che dallo Stato escono sostanzialmente 6 più 2, 8 miliardi di investimenti. È chiaro che vuol dire metà di una manovra annuale. Dove li trova lo Stato, mi scusi? No, però guardi, in realtà questa crescita, lei ha detto tutti i dati esatti, questa crescita che diceva dal 99 al 2008 è stata soprattutto, almeno dal 2004 sicuramente in poi, legata esclusivamente al mercato privato, è seguito a tutti gli andamenti internazionali delle costruzioni. Noi quello che diciamo invece è che il settore dei lavori pubblici è sempre avuto una diminuzione costante dal 2004 a oggi di stanziamenti, il 34% l'ha detto correttamente negli ultimi 3 anni. Nello stesso tempo noi quindi proponiamo che ci siano le risorse essenziali, che ad esempio sia sbloccato il patto di stabilità per la quale dei comuni virtuosi non riescono a pagare le imprese, che sono anche, subiscono anche ritardi di pagamento di 2 anni, che non riescono ad attivare minimamente lavori nuovi e quindi stanno in una condizione di grandissima sofferenza per questo motivo. E noi non chiediamo chissà quali risorse, ma le poche che ci sono di spendere. Abbiamo fatto un esempio sui FAS, che sono completamente andati a finire diciamo o fermi nei cassetti regionali delle varie regioni, oppure utilizzati per altre ragioni, dalle quote latte ai deficit sanitari di alcune regioni, mentre l'Europa ce li ha stati per fare infrastrutture. Cioè, qui bisogna fare delle scelte, come dicevo, di politica industriale. Non vogliamo che si spendano soldi che non ci sono, ma soldi che era già stato deciso che fossero stanziati per l'edilizia. Poi le parlo sulle case e sulle città in termini di di riqualificazione, stiamo dicendo, dell'esistente, non stiamo dicendo di nuovo consumo di territorio, e quindi diciamo in parte distinguiamoci completamente dalle idee che riguardano il decennio passato, ma occupiamoci di fare quello che stanno facendo in tutte le città del mondo, e cioè di riqualificare in tempi veloci per consentire all'economia che viene dalle città di progredire e non di stare in uno stato di progressivo decadimento. Presidente Buzzetti, in bocca al lupo per l'assemblea di domani. Dubito comunque che con questi chiari di luna arriverà molto. Lei fa bene a ricordare che i soldi che citavo non sono soldi nuovi, ma sono soldi già stanziati. Il blocco poi del piano CIP è una cosa, ma i soldi erano già stati stanziati per le opere infrastrutturali. Noto solo che nel 2012 è prevista un'altra botta, meno 7% degli investimenti nelle opere pubbliche e meno 5% nel mercato del nuovo residenziale. Grazie comunque al presidente dell'ANCE, quindi dell'Associazione Nazionale dei Costruttori, Paolo Buzzetti. Grazie a lei. Allora, adesso arriviamo alla borsa. Un paio di risposte. Alcune domande che arrivano dicono: ma insomma, ieri era colpa della politica se la borsa perdeva, gli spread aumentavano. Oggi, visto che la borsa recupera e lo spread è leggermente calato, vuol dire che è merito della politica. Poi c'è chi mi dà del comunista e chi mi dà del fascista. Sarà un fascio comunista, no? Sono una roba. C'era anche un libro molto bello su questo. Vabbè, adesso a parte le battute, abbiamo sostenuto che la manovra è stata approvata in tempi obiettivamente rapidi, che c'è stato un senso di responsabilità, che i conti non sono in peggioramento, che l'Italia ha un risparmio privato che, per quanto non possa essere calcolato nei criteri contabili europei in senso stretto, però è un risparmio privato altissimo che va al 180% del PIL, che la tenuta dei conti è sugli occhi di tutti, abbiamo un deficit più basso della Francia, che quindi non vi erano motivi economici per attaccare l'Italia e il suo debito se non speculare sulla debolezza della politica italiana. E uno spread a 312 punti resta uno spread molto elevato nei confronti del Bund tedesco. Adesso andiamo al meteo e alla pubblicità, poi commentiamo la borsa che ha chiuso con un più 1,90%, quindi recuperando sostanzialmente un terzo di quello che ha perso ieri, e poi gli altri temi di questa puntata. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora vediamo il recupero di borsa. Attenzione, se ieri ha perso il 3% e oggi guadagna il 2%, non ha recuperato i due terzi, non funziona così. E adesso vi spiego anche perché. Ha recuperato nemmeno il 50%, così come se un titolo che vale 50 euro perde il 10% un giorno e va a 45, se fa il 10% di guadagno il giorno dopo va a 49,5, non va a 50. Ok, adesso comunque ne parliamo. Più 92% oggi, bene, in recupero molti bancari, anche se al di sotto ampiamente dei cali di ieri. La borsa come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore. Ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Allora, i dati americani sulle costruzioni erano buoni oggi, li abbiamo ricordati, e questo ha aiutato Wall Street. In realtà oggi il recupero c'è a livello europeo su tutti i bancari, non fa eccezione Milano. Unicredit più 4,70, Intesa più 4,30, Banco Popolare più 3,30, Monte dei Paschi più 3,20, e ancora UbiBanca più 1,95%. Che cosa è cambiato rispetto a ieri? Assolutamente nulla. Diciamo che le banche in questi giorni hanno perso tanto, basta vedere anche i valori assoluti delle azioni. Guardate Intesa San Paolo che oggi aveva aperto a 1,49, Unicredit a 1,1, insomma, valori molto bassi, gli operatori scommettono un po', ma neanche tanto, sul vertice dell'Eurogruppo di giovedì, dove dovrebbero esserci delle novità sul secondo piano di salvataggio greco, anche se poi il cancelliere tedesco Angela Merkel ha detto che non dobbiamo aspettarci cose stratosferiche. Insomma, qualcuno ha ritenuto che le banche italiane fossero molto economiche e ha deciso di comprarle per oggi. Ancora altri titoli, Pirelli è andata molto bene in questi mesi, oggi perde il 5%. Sì, Pirelli oggi ha autentica giornata nera, nell'ultimo anno aveva praticamente raddoppiato il valore, perché l'anno scorso in questi tempi valeva circa 4 euro, nell'ultimo mese ha guadagnato qualcosa come il 10%, oggi ci sono stati anche alcuni, diciamo, circolavano sul mercato alcuni report che confrontavano Pirelli e Michelin, e dicevano che Michelin era più conveniente di Pirelli, allora si ipotizza anche che ci possa essere stato uno switch sulle posizioni degli operatori da Michelin a Pirelli. In realtà poi Michelin ha perso lo 0,7% sulla piazza di Parigi, quindi sembrano più che altro realizzi sul titolo. Ancora, adesso vi facciamo il calcolo, non vi preoccupate. Ancora sui titoli, bene oggi in pregilo, visto che parlavamo di settore dell'edilizia, poc'anzi più 2,90%. Sì, molto bene in pregilo, ci ricordiamo i giorni scorsi quando era andato giù ripetutamente insieme anche ai titoli delle costruzioni, forse anche sulle preoccupazioni per la congiuntura. Si tratta di titoli ciclici delle costruzioni, comunque molto legati all'andamento dell'economia, che ne fanno anche un volano, e oggi invece ha recuperato e va a riavvicinare la quota di 2 euro, oggi ha chiuso a 1,88. Ancora tra i titoli, tra l'altro Fondiaria Assai continua a essere penalizzata nonostante l'aumento di capitale. Sì, meno 1,68%, l'aumento di capitale si è chiuso con successo, bisogna vedere anche poi le banche del consorzio quale paracadute hanno offerto. Intanto giovedì poi c'è questo consiglio di amministrazione di Fondiaria Assai, in cui poi si andranno anche a definire, diciamo, le nuove deleghe e i nuovi ruoli di responsabilità all'interno della compagnia. C'è da presumere che Unicredit, dopo aver messo, diciamo, cospicui denari, qualcosa vorrà contare. Intanto in attesa di questo il titolo perde ancora e oggi ha chiuso a 1,76 euro. Ancora sì, allora vediamo di capirci, no, perché visto che continuano i messaggi, se un titolo vale 100 e un giorno perde il 50% e va a 50, se il giorno dopo riguadagna il 50% non va a 100, non funziona così. Allora ieri la borsa, immaginando che fosse a 100, ha perso il 3%, è andata a 97, oggi su questo 97 guadagna quasi il 2%, cioè l'1,92%, diciamo il 2%, e quindi siamo sostanzialmente a 1,94 in più, va a 98,94, che non ha recuperato, come pensano alcuni, i due terzi. Non è che siccome perdi il 3% e guadagni il 2% hai recuperato i due terzi, non funziona così. Detto ciò, andiamo avanti, tra i titoli migliori e peggiori segnalo anche Fidia più 17%, TAS più 10,15%, e Salvatore Ferragamo più 7,76%. Fronte opposto invece Bioera, che ieri aveva fatto un debutto col botto, meno 11%, Risanamento meno 5,80%, Pirelli meno 4,95%, Indesit meno 4,11%. Aspettiamo una volta tanto noi il traffico e non loro noi. Class Editori meno 3,55%. Parliamo di Meridiana, visto che poi vi accenneremo Air Italy. Meridiana oggi ha guadagnato molto, come dicevi tu, festeggiando l'integrazione con Air Italy. È arrivato ieri l'annuncio, Meridiana e Air Italy hanno comunque reso noto questo progetto di integrazione che potrebbe dar vita a una grande realtà di 800 milioni di fatturato con una flotta di 35 velivoli. Insomma, questi sono i numeri annunciati, come avviene di solito. Poi vedremo se realmente ci sarà questo e se avrà successo questo progetto industriale. Nel frattempo in borsa comunque il titolo è stato premiato. Ancora per quello che riguarda l'operazione, ne parleremo. Risanamento invece cala del 5,80%, invece sale Ferragamo, di nuovo il settore lusso sotto i riflettori. Sì, quella di Ferragamo è una bella storia, specie di questi tempi che i mercati sono in grossa difficoltà. Dal giorno del debutto, infatti, le azioni hanno guadagnato praticamente il 30%, il che non è poco. Oggi Ferragamo è stata anche favorita dalle performance delle vendite della francese Hermès, che nel primo semestre hanno segnato più 22%. Hermès ha anche alzato le stime sul 2011 e così Ferragamo oggi ha chiuso a più 7,7% a 11,8 euro. Adesso c'è il traffico, Abemus traffico e poi di nuovo altri titoli di borsa. Allora, Cheo Condina di nuovo in diretta con noi su Meridiana e Ritli. Volete sapere, adesso vi raccontiamo anche i dettagli dell'operazione. Dicevamo sui titoli, Pirelli sull'ordinario meno 4,25%, Indesit meno 4,11%, fronte opposto per quello che riguarda i titoli in crescita, Fidia più 17%, TAS più 10%, IKF più 9,50% e appunto Salvatore Ferragamo più 7,76%. Ancora, il gruppo Fiat oggi in recupero, che ho soprattutto sulla parte camion e trattori, Fiat Industrial, anche sull'auto l'1,47%. Sì, in realtà il mio nome si legge senza H, quindi CEO. Scusa? Si legge CEO il mio nome. Senza... Scusami, CEO, hai ragione, CEO. Un lapsus. No, Fiat, sì, Fiat un'ottima performance, il titolo aveva perso molto nelle ultime settimane, e poi ultimamente abbiamo avuto anche il grosso dibattito di Marchionne sulla legittimità o meno della Newco. Fiat Industrial in particolare più 2,8% grazie a delle prospettive del mercato non auto molto buone in Europa. Ricordiamo che a maggio il mercato non auto in Europa è cresciuto del 22%, quindi gli operatori premiano queste prospettive positive per Fiat Industrial, che appunto si occupa prevalentemente di trattori. Ancora, per quello che riguarda altri titoli, volete sapere degli energetici? È un periodo che sono poco mossi, comunque visto che oggi la situazione è più tranquilla e ce ne occupiamo. Snam più 1,26%, Enel Green Power più 1,34%, la migliore è Enel oggi più 1,60%, Eni più 0,70% sul listino. Grazie, CEO. Grazie a voi. Condina, e adesso cambiamo radicalmente tema, era un po' che volevamo occuparcene, oggi ripeto la giornata è più tranquilla, allora riusciamo anche a dare qualche buona notizia, soprattutto per quello che riguarda il patrimonio di questo paese. Perché dico questo? Perché c'è un progetto, tra l'altro nei prossimi giorni ci occuperemo anche di turismo per fare il punto e monitorare come stanno andando le prenotazioni alberghiere, ma c'è un progetto a sud di Milano, il Parco Sud di Milano, che è un parco agricolo che tra l'altro è il più grande parco agricolo d'Europa, 47.000 ettari, che è minacciato, non so se sia minacciato o messo in pericolo, comunque da alcuni progetti di nuove infrastrutture viarie, come uno svincolo della Brebbe Michela, Brescia, Bergamo, Milano o la nuova tangenziale esterna ovest. Allora, i vertici del FAI e della Confederazione Italiana Agricoltori ne hanno parlato alcuni giorni fa in un convegno, le ipotesi che sono uscite sono assolutamente interessanti e il nostro Paolo Piacenza ha raggiunto sul tema l'economista Marco Vitale. Parco Sud è un grande patrimonio della nostra regione, della nostra provincia, e che ha dei grandi valori non solo agricoli ma ambientali, di salute, di storia. Però è emerso anche sulla base di una ricerca molto seria fatta dall'Università Facoltà di Agraria, che questo consumo di terreno prezioso è in grande aumento e quindi nel corso degli ultimi 10 anni si è perso moltissimo terreno si è perso moltissima logica del Parco Sud, e questo per una serie di fattori, tra cui quello principale è quello delle infrastrutture. Quindi è stato messo in discussione, e io condivido questa critica, alcune infrastrutture che sono state definite essenziali e che invece hanno una funzione ridottissima. Tutte queste bratelle, queste nuove tangenziali che si collegano a Malpensa, un aeroporto oltretutto declassato che non ha bisogno di queste opere gigantesche che costano enormemente e che si può con molto meno spesa e senza consumare tanto terreno aggiustare delle vie che portano in quella direzione o addirittura aumentare ancora l'autostrada che porta a Malpensa. Quindi sembrano delle opere non giustificabili, costosissime e anche pericolose, se è vera la notizia che intorno a quel tracciato già ci sono degli acquisti di fattorie agricole a prezzi non giustificati. È possibile un modello di sviluppo che, a partire da quella esperienza del 1990 ormai, cioè del Parco Sud, coniughi anche la necessità di una realtà come Milano di rendere più efficiente e più razionale il suo sistema di circolazione, non necessariamente attraverso le infrastrutture stradali? Sì, assolutamente sì, si parla anche di rafforzare le ferrovie dalla parte sud e ovest dove sono così deboli. Non dimentichiamo mai i nostri nonni o bisnonni che opera gigantesca e bellissima hanno fatto creando la rete ferroviaria, le Ferrovie Nord, e che valore immenso hanno. Pensate se tutte le mattine la gente che viene con le Ferrovie Nord arrivasse in macchina, saremmo morti. Quindi Milano deve ripensare, e deve ripensare con una visione economica più aggiornata, più moderna, dove i valori della abitabilità, della vita e del rispetto dell'ambiente vengano riconosciuti anche come grandi valori economici. E questo è quello che manca ancora, anche se è una consapevolezza che sta aumentando. È una consapevolezza che sta crescendo anche nel mondo delle imprese. Qui si tratta di conciliare un corretto profitto, un profitto fertile, con il valore di tutto l'ambiente in cui un'impresa opera. In questo senso le imprese, ma soprattutto le imprese manifatturiere, hanno fatto molta strada, secondo me, negli ultimi anni, mentre è una strada in cui sono molto molto indietro ancora tutta l'industria delle costruzioni, anche se anche qui si incomincia a vedere qualche sforzo. Beh, difficilmente contestabile il ragionamento di Marco Vitale, che oltre a essere stato uno dei fondatori dell'Andersen Italia, un uomo che ci ha raccontato cosa fu lo scandalo Enron, che richiameremo anche perché è uno di questi, insomma, grandi vecchi in senso positivo della finanza italiana, fa un ragionamento anche sulla capacità che ha un sistema come quello di Milano, alla luce poi dell'Expo, di reinventarsi, o che dovrebbe avere un sistema come quello di milanese di reinventarsi e di rinvertare un nuovo sviluppo urbanistico. Allora, la vexata questio delle percentuali. Trovo perfetta la definizione di un ascoltatore, vediamo se la riesco a riprendere. Eccola qua. La percentuale fissa di una cifra alta è ovviamente più grande della stessa percentuale fissa di una cifra più piccola. No, va bene così? Tecnico, mi guarda tutto. Vuol dire che se tu hai un titolo che vale 100 euro e perdi il 30%, vai a 70 euro. Se guadagni il giorno dopo il 30% su 70 euro, non guadagnerai 30 euro, perché è il 30% di 70, non il 30% di 100. Vabbè, cioè, non è mai troppo tardi, lo diciamo con il massimo rispetto. Questo vuol dire che oggi la borsa, guadagnando l'1,92% e avendo perso il 3% di ieri, non ha recuperato i due terzi, ha recuperato poco più della metà. Adesso il GR e poi torniamo a parlare di quello che sta capitando sui mercati e anche a raccontarvi l'operazione Meridiana Air Italy. 349-238-6666 per i vostri sms. We'll be right back. 18 e 6 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, adesso arriviamo anche all'analisi di quanto sta capitando non giorno per giorno sui mercati, però prima di tutto alcuni aggiornamenti dall'integrazione di cui parlavamo prima nel commento di borsa tra Air Italy e Meridiana, nuovo gruppo, domani sarà nostro ospite anche il fondatore di Air Italy, Giuseppe Gentile, che tra l'altro è stato nominato nuovo amministratore delegato della fusione tra le due compagniere, che è una fusione che vale praticamente 800 milioni di euro di fatturato, e vi sarà anche un aumento di capitale da 231 milioni di euro che avverrà dopo la conclusione dell'intera operazione. Meridiana Fly infatti lancerà, una volta perfezionata l'acquisizione, due aumenti di capitale per un ammontare complessivo di 231 milioni. Per la precisione sarà un aumento di capitale da 150 milioni, un altro da 70 milioni. E la prima dichiarazione del neo amministratore delegato, che era il proprietario e fondatore di Air Italy, e mi riferisco proprio a Gentile, è quello di un rilancio della compagnia sul territorio isolano, andando a recuperare fette di mercato che nel tempo sono andate perdute, e questo riguardava Air Italy e Meridiana. Per il resto passiamo adesso a cercare di capire perché da un mese a questa parte, e soprattutto nell'ultima settimana, vi sia stato un attacco del genere ai debiti sovrani, quando molti ci hanno fatto notare in questi giorni che il vero problema sul debito ce l'hanno gli Stati Uniti. Tra l'altro, sulla rete, come dicevo in apertura del programma, circolano ormai da giorni ipotesi di un complotto ordito da banche d'affari, grandi speculatori e quant'altro, teso a spostare sull'Europa tutta la speculazione per lasciare respirare gli Stati Uniti, e quindi l'attacco all'Europa non sarebbe frutto di ragionamenti e debolezze, come nel caso italiano, di carattere politico, ma sarebbe frutto appunto di una mossa strategica che punta a salvare il debito americano e a indebolire l'euro come moneta di riferimento. E allora parliamo proprio di questo. Sì, mentre ricordo, visto che ce lo chiede chi si è appena messo in collegamento, ricordo che la borsa oggi ha guadagnato l'1,92% e lo spread tra BTP italiani a 10 anni e l'equivalente obbligazione tedesca a 10 anni si è ridotto, anche se resta sopra i 300 punti, è sceso fino a 302 e ha oscillato tra 302 e 320 punti. Dicevo, vorrei affrontare il tema del complotto, della speculazione che si accanisce con chi è una firma e anche una voce, una firma del Sole 24 Ore e anche una voce di Radio 24, ma chi scrisse un libro bellissimo, lo portavo in trasmissione alcuni anni fa, Economia e Pazzia, raccontando tutte le varie bolle speculative della storia, da quella dei tulipani a quella scozzese, e mi riferisco a Fabrizio Galimberti. Buonasera Fabrizio. Buonasera a tutti. Allora Fabrizio, poi ci racconterai anche che cosa esce domani sul Sole 24 Ore, il manuale per resistere alla crisi. Però prima di tutto vorrei restare sull'attualità. Oggi la giornata, come dicevamo, è sicuramente più tranquilla, sia sul fronte degli spread, quindi delle tensioni sul debito di Italia e Spagna, sia sul fronte delle borse. Però c'è chi ritiene, e qui vorrei oggi introdurre il tema della rete, la rete intesa come internet. Riceviamo moltissimi messaggi sia su Facebook che in altre forme, di chi ritiene in primo luogo che questa calma apparente verrà di nuovo rotta ad agosto, quando il mercato è molto poco liquido, cioè i francesi, gli italiani, i tedeschi sono tendenzialmente in vacanze, non solo loro, pochi operatori sul mercato, è più facile con somme più basse muovere moltissimo i titoli. Ritieni che ad agosto torneremo a ballare? Ma l'agosto diciamo è sempre stato un mese imprevedibile, ma io non credo che ci siano delle particolari motivi per aspettarsi che questo agosto sia più imprevedibile di altri. È vero che il mercato è sottile, è vero che relativamente pochi soldi possono far ballare le quotazioni, ma penso che molto dipenda da quello che si decide nei prossimi giorni. Se torna il sereno con una presa di posizione coerente da parte della Unione Europea per quanto riguarda il problema dei debiti sovrani, ecco che anche all'agosto dovrebbe essere tranquillo. Ecco, in caso contrario è vero che saremo esposti ad attacchi speculativi di breve termine. Quindi che cosa potrebbe portare una tranquillità? Perché in questo momento non capiamo più, anche in Italia, abbiamo detto ieri, sicuramente la debolezza politica, il dubbio che hanno i mercati, che hanno espresso in molte interviste, in molte copertine, che il governo italiano possa fare riforme incisive, vivendo divisioni al suo interno, e dubbi anche sull'alternativa politica, cioè che l'opposizione possa rappresentare un'alternativa immediata e facilmente eseguibile. Ma al di là di questo, che cosa potrebbe tranquillizzare il mercato, inteso come chi sta scommettendo contro l'euro, contro l'Italia, contro la Spagna? Beh, la tranquillità dovrebbe derivare dalla uscita da questa posizione ambigua che ha l'Unione Europea sul problema della partecipazione dei privati alla eventuale perdita in conto capitale derivanti da ristrutturazione dei debiti dei paesi sovrani. Ecco, questo è il vero punto. Cioè, ridetta in altri termini, Fabrizio? Beh, in altri termini, diciamo, se si va verso una ristrutturazione del debito greco, ecco, diventa inevitabile che anche i privati ne debbano partecipare. Ecco, le banche o diciamo i risparmiatori privati che abbiano in pancia dei titoli di Stato greci. Ecco, ora il problema è se questa partecipazione dei privati alla risoluzione del debito greco deve essere una cosa volontaria, quali modalità deve prevedere. Finora tutto questo è avvolto, diciamo, nell'oscurità e nel limbo di termini tecnici che certo non aiutano a comprendere la situazione. Bisognerebbe uscire e dire chiaramente se ci sarà questa partecipazione dei privati a un'eventuale ristrutturazione del debito greco oppure no. Ecco, è questo che dovrebbe far uscire dall'ambiguità. Finché c'è questa ambiguità è chiaro che c'è il pericolo di contagio anche rispetto a paesi con le finanze pubbliche molto meno traballanti di quelle greche, come in effetti è l'Italia. In Italia la finanza pubblica è sostanzialmente sotto controllo e il fatto della crisi recente deriva semplicemente dal fatto che il mercato ha guardato finora un bicchiere mezzo vuoto, cioè un bicchiere mezzo pieno, e ora lo vede mezzo vuoto. Allora Fabrizio, dopo il traffico però vorrei sapere, immaginando che giovedì quando c'è questo vertice europeo, oggi Angela Merkel ha detto non vi aspettate cose sorprendenti, in realtà uno dei membri del Consiglio della Banca Centrale Europea ha detto no, occorrerà che arrivino prese di responsabilità molto forti e quindi che la Banca Centrale Europea dica per esempio che anche nel caso di un default pilotato, di un fallimento pilotato dalla Grecia per breve tempo, la Banca Centrale Europea continuerà a comprare titoli di Stato greci anche appunto di fronte a un breve default selettivo. Ma immaginando che giovedì arrivino le rassicurazioni, il coinvolgimento dei privati a cui tu facevi riferimento, dopo il traffico vorrei capire se c'è qualcosa di più, perché disegnare complotti è uno sport nazionale. Più di una persona lo sta facendo in questi giorni sui siti, disegnando un complotto che è tutto incentrato sulla superpotenza americana, su Wall Street, sul modo in cui con questi attacchi speculativi si indebolisce l'euro, si indebolisce l'Europa e si distoglie l'attenzione dal vero malato che sarebbe l'America, con il suo debito fuori controllo e un deficit che viaggia ampiamente sopra il 10%. Dopo il traffico la risposta, 349-238-6666 per i vostri sms. 18-17 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, Fabrizio Galimberti, sulla rete circola questa idea che, come avvenne nel 92, che la lira e la sterlina furono cacciate dallo SME per la speculazione di Soros al tempo e di altri mercati che scommettevano su questo, addirittura c'è chi dice le grandi banche d'affari, Goldman Sachs, il patto poi del Britannia per arrivare alle privatizzazioni in Italia, adesso di nuovo Soros con l'aggiunta delle grandi banche d'affari americane, con l'aggiunta delle agenzie di rating che sono controllate nel caso di Moody's anche da un finanziere come Buffett, da grandi fondi di investimento. Tutti si sarebbero messi d'accordo in qualche, diciamo, albergo di lusso, in qualche stanza di qualche albergo di lusso, per dirigere un attacco concentrico sull'Europa partendo dal suo ventre molle, quindi Spagna e Italia e non più solo Portogallo e Irlanda, per scaricare sull'Europa tutte le tensioni che in realtà sono americane e per fare in modo che il dollaro, non potendo apprezzarsi, almeno resti debole, debole l'euro, far pagare, diciamo, usare come riserva in qualche modo valutaria l'Europa. Ti convince l'idea di un complotto ordito, insomma, da 7, 8, 10 grandi banchieri e speculatori? No, sostanzialmente mi sembrano delle teorie analoghe a quelle che dicono che John Kennedy fu ucciso dalla CIA o che le Torri Gemelle furono organizzate anche lì da qualche imperscrutabile agenzia per la sicurezza americana. Io penso che purtroppo la rete, così come è uno strumento stupendo per la diffusione dell'informazione, è anche uno strumento in cui la disinformazione o i complotti o le teorie anarcoidi rivoluzionarie prendono piede in giro per il mondo. Io non credo a questa plutocrazia che decide di muovere i confini, decide di muovere i capitali del mondo secondo loschi scopi. C'è un grano di verità, e il grano di verità è il fatto che il dollaro ha i suoi problemi, l'euro ha i suoi problemi, ma in fondo non è che l'euro oggi sia molto debole. A 1,40, ricordiamoci che l'euro era sceso a 1,25 contro dollaro un anno e mezzo fa, quando non c'era nessun problema particolare. Penso che queste oscillazioni delle valute hanno molte motivazioni. In questo momento il dollaro a 1,40 è relativamente forte, e quindi già questo smentisce il fatto che sia in opera un complotto per indebolire l'euro a sfavore del dollaro. Se uno guarda a lungo periodo, vede che il dollaro oggi è la valuta debole rispetto a quello che era il suo cambio effettivo reale negli ultimi 20 anni. Sì, è vero, l'euro è rimasto 1,40, però Fabrizio, obiettivamente, al di là della teoria del complotto pluto-giudaico-massonico, perché poi andiamo sempre a parlare lì in queste teorie di complotto, però una cosa è vera, e cioè il debito italiano e il deficit italiano non sono peggiorati nell'ultimo mese e mezzo, cioè quando gli spread erano con il Bund tedesco erano a 140-150. Non c'è stato un peggioramento dei conti italiani, anzi, una manovra finanziaria approvata in pochi giorni, per carità, con tutti i limiti, che sposta tutto al 2013-2014, ma non c'è notizia. La vera notizia ha riguardato nell'ultimo mese il debito americano, perché lì sì, abbiamo visto dei repubblicani, soprattutto i Tea Parties, non voler aumentare il tetto del debito, e anche alcuni deputati democratici essere fortemente contrari a questo. È una grossa difficoltà di Barack Obama. Però stranamente nessuno si è scagliato contro l'America. Wall Street non ha perso grandi cifre, non è stato messo in discussione il debito statunitense, ma quello europeo e nel caso specifico italiano. È un po' strano, no? Beh, diciamo che il mercato giudica, a mio parere correttamente, che alla fine troveranno un accordo in America, perché è impensabile che l'America vada in default. che quindi tutto questo è, come dicono gli anglosassoni, un grandstanding, cioè una specie di teatrino, come direbbero altri politici nostrani, che viene giocato, è vero, sulla pelle dell'America, però sapendo che alla fine poi si troverà un accordo. Ecco, mentre invece nel caso dell'Europa, ecco, ci sono dei paesi che sono insolventi come la Grecia, e quindi c'è un problema vero, un problema che non è solo di liquidità ma di insolvenza, ed è un problema a cui bisogna trovare un rimedio. Ecco, l'America ha le spalle più larghe della Grecia e penso che anche una capacità di crescere dell'economia, perché poi alla fine tutto dipende dalla capacità di crescita dell'economia reale. Se l'economia reale cresce, tutti i problemi si risolvono; se invece non cresce, tutti i problemi si imputridiscono. Tu ritieni quindi che anche in questo caso vi sia un ragionamento corretto nei mercati, andare a colpire più l'Italia che non l'America, in questo caso, o l'euro, l'area euro? Beh, più diciamo l'area euro, perché il problema dell'Italia è vero, come dici tu, che non c'è stato nessun peggioramento della situazione della finanza pubblica italiana. Ancora i dati di giugno ci dicono che il fabbisogno di quest'anno è inferiore a quello dell'anno prima, e quindi confermano le previsioni di un disavanzo pubblico complessivo del 2011 migliore e inferiore a quello dell'area euro per l'Italia. Quindi non c'è stato nessun peggioramento nelle situazioni di base dell'Italia, anzi, semmai uno può dire, con l'approvazione della manovra, criticabile quanto si vuole, ma che certamente contribuisce a mettere il bilancio in zona di sicurezza, le cose sono migliorate. Quindi se l'Italia è sotto attacco è semplicemente perché dopo le elezioni amministrative il mercato ha avuto la sensazione che il governo italiano si è indebolito, che la mano ferma di Tremonti potrebbe essere resa più o meno ferma da una situazione latente o effettiva di crisi in seno al governo, e che questo potrebbe, diciamo, portare a una perdita di controllo della finanza pubblica. Però queste sono cose che sono state, a mio parere, negate dal fatto che in questo momento c'è stato un accordo fra maggioranza e opposizione per far passare la manovra rapidamente. Quindi quando ci sono veramente delle situazioni gravi di crisi, gli italiani sono capaci di trovare una unità di intenti, unità che si è vista anche non solo a livello del Parlamento ma anche a livello dei corpi intermedi, con quell'accordo fra Confindustria e sindacati sulla rappresentanza e sui contratti. Ecco, quindi io penso che in questo momento semplicemente questa situazione dipende dal fatto, come dicevo prima, che il mercato si preoccupa giustamente di cose che possono succedere ma che non penso che succederanno. Ecco, quindi passiamo da una situazione, come dicevo prima, di bicchiere mezzo pieno a bicchiere mezzo vuoto, e tutto questo può far ribaltare in breve periodo il giudizio. Certo. Però siamo sempre in una situazione in cui i fondamentali dell'Italia non giustificano questo attacco della speculazione. E torni a dire quanto ricordavamo ieri, e cioè che se uno guarda i fondamentali dell'economia, crescita, debito, deficit, avanzo che non c'è, risparmio privato, tenuta del mondo bancario, stress test delle banche italiane, non c'è motivo per vedere un peggioramento della situazione nell'ultimo mese e mezzo. L'unica vera variabile nuova è quella politica, ossia il risultato alle amministrative e il referendum, le tensioni all'interno del governo che hanno messo, o cercato, o sembrato mettere in un angolo il ministro Tremonti per via di varie vicende che abbiamo anche ricordato. Ultima domanda, Fabrizio Galimberti, il manuale che esce domani con il Sole 24 Ore è per resistere alla crisi. Per resistere alla crisi esiste il materasso, è un manuale che suggerisce che tipo di materasso utilizzare, o esistono anche strumenti un po' più moderni e meno arcaici? Beh, diciamo che questa crisi è una crisi complessa, e quindi diciamo il lettore medio può fare fatica a capire quali sono le motivazioni, fanno fatica anche gli addetti ai lavori. Quindi da questo a passare a una situazione in cui, come è successo nel 2008, la gente si preoccupa addirittura di quello che potrà succedere ai loro soldi in banca, si può preoccupare di quello che succede ai loro titoli, di quello che succede alla loro pensione per quelli che ancora non sono andati in pensione o anche per quelli che già ci sono andati. Ecco, tutti questi motivi di preoccupazione si sommano in un nodo che deve essere sciolto per dare un orientamento, per mettere le cose nella giusta prospettiva, per distinguere il grano dall'olio. E quindi questa serie che ha cominciato Il Sole, che comincerà effettivamente domani, mira semplicemente a dare alcuni cartelli indicatori per poter orientarsi nel labirinto di questa crisi. E allora domani su Sole 24 Ore, il manuale per resistere alla crisi. Intanto grazie a Fabrizio Galimberti. Grazie, arrivederci. E siamo veramente in conclusione del programma. Devo però leggervi un flash di agenzia. La Procura di Milano starebbe valutando l'ipotesi di un'istanza di fallimento per il San Raffaele di Milano e quindi tutta la struttura sommersa da centinaia di milioni di debiti, spesso osannata, ne parleremo più avanti, di Don Verzè, se non arriverà a breve un piano ragionevole di salvataggio. Leggo assieme a voi l'agenzia, immagino che poi vi sarà più spazio nei nostri GR domani mattina e poi vedremo anche di fare punto anche noi sullo stato di salute del San Raffaele, che da gioiello, e sicuramente con grandi meriti professionali, ma da gioiello gestionale si è rivelato essere un pozzo senza fondo e un buco nero sui soldi soprattutto. È l'ultima notizia per oggi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani alle 17. Radio 24, la passione si sente.